il CDB, il Brindisi, appena entri, se trovi subito i carabinieri che ti danno la cuccia, il portone che si apre, e poi dopo devi andare in una specie di ufficio dove ti fanno le varie analisi, i carabinieri che ti mettono in una situazione molto degradante, come lo posso definire, in cui ti fanno spogliare per controllare se hanno oggetti illeciti. E accanto subito c'è una struttura infermieristica dove facciamo la terapia dalle 10 alle 11 e mezza, e poi lì accanto c'è l'ufficio dell'ispettore, e poi dopo ci sarebbe un sentiero per passare, dove si attendono le guardie finanze, e poi dopo ci sarà una specie di cancello armato, dove per aprirlo usa una chiave lunga quasi 15 centimetri, è grossa. E poi dopo, subito accanto, si trovano tutti i lotti lungo questo corridoio dove sono tutti i lotti, come una gabbia proprio, prigione. Ti aprono, tu entri, trovi subito il campo nostro, perché noi siamo nel lotto 1, e ogni lotto ha la capienza di 20 persone, però attualmente noi siamo in 12, e nell'altro lotto sono tutti gli extracomunitari africani, che non so da dove derivano, se derivano direttamente dal carcere o da Libia. Il lotto 3 è il lotto più piccolo. È l'area, presente l'area dove presente l'area del carcere, cioè l'area dove tu vai a camminare, giusto? Questa è l'area piccola. È come davanti a te c'è un portone grande d'acciaio e c'è una porticina piccola piccola dove ti passano il cibo prima. Poi ci sta il ferro con la plastica forzata che non la puoi rompere più in su, hanno coperto anche le telecamere con il ferro e poi c'è la rete, lunga almeno 12 metri. Anche 20 metri e muri, e sono tutti muri di cemento armato. Hanno messo anche la rete sopra, Tu tutto ne sai nulla. ferro, tutto porte. Eh sì. La porta recintata, proprio quella d'ingresso dove poter accedere al nostro lotto, c'è una specie di bu una buchetta che fa passare il cibo, è quello, tipo quello dei cani, e noi abbiamo dovuto fare una rivolta per dichiarare che noi siamo esseri umani, almeno se ci devono consegnare il cibo devono entrare, quindi gli ultimi 3 giorni sono sempre entrati per consegnarci il cibo. Una gabbia chiusa proprio, con come si dice, i 4 angoli circondati da cemento armato, e tutte le volte che dobbiamo richiedere servizi ci tocca sbattere i portoni urlando, e poi suoniamo i citofoni, a volte non rispondono. Settimana scorsa che un ragazzo ha tentato di scavalcare il recinto, che non ce la faceva più, insisteva che voleva andare via dal posto, che non ce la faceva più, che è inutile che dopo tanti anni che ha scontato in carcere, avendo scontato la sua pena, l'hanno lasciato qua. So che si sono arrampicati, sono arrivati fino a su, però hanno trovato che c'erano gli uffici, il muro era troppo alto. Niente, è una situazione molto schifosa, perché ci consegnano il cibo che neanche i neonati o i cani mangerebbero, però non abbiamo scelte, dobbiamo mangiarli per forza. Gli operatori, la polizia, loro fanno sorveglianza, e poi quando vengono gli operatori esterni, tipo per sistemare i vari servizi che sono rotti, praticamente si arriva un tecnico tipo per il bagno che non funzionava, che scaricava l'acqua da quasi una settimana e mezzo. E ogni volta che vengono la polizia le accompagna in 5-10, come se dovessimo fare chissà che. Ah, il reparto medico, cioè tu vai lì, ti fanno una serie di domande, ti danno quello che ti devi prendere ogni giorno, e poi appena esci trovi 10 carabinieri o guardia di finanza che ti fanno il controllo con il metal detector per vedere se tu hai qualche oggetto illecito con te. No, abbiamo poi nome, ci chiamano con i numeri. Uno sente 46, per esempio sente 26, 23, sa che è lui. Quindi è brutto quando la prefettura dà le ordini di espulsione, che questo giorno bisogna ripatriare un ragazzo, entrano in 3-4, per svegliare la persona alle 2, alle 5, quindi molto spesso non riusciamo a dormire perché abbiamo tutto il terrore del pensiero che tocca oggi. E tutto questo comporta la depressione, perché vedi, ragazzi, la maggior parte al giorno bevono 5, 6, anche 10 caffè al giorno. Io dico, cazzo. Stanno incatenando le persone al loro paese senza avvertire i loro avvocati. Cioè, tu a me non mi puoi portare via il mio paese, io ho la madre e il padre qua. Alle 2 di notte entrano senza fare casino, svegliano la persona a partenza. È una frase molto brutta, quindi è come se dovesse crollare il mondo. Loro senza rendere conto, anche l'ufficio di immigrazione senza rendere conto che gli stranieri che vengono qui dal loro paese, a volte loro investono centinaia di migliaia di euro per venire dal loro paese qua, perché a volte vengono con tramite sistemi clandestini, okay, per migliorarsi la vita. No, io penso che è una questione intellettuale, perché siamo noi esseri umani la causa della sofferenza della globalità, certo. Cioè loro ci stanno rallentando, rallentando fino a quando finisci un mese, 2 mesi e ti portano via nel tuo paese. Abbiamo creato il caos perché non si poteva più, ci prendevano in giro, questi volevano impatriarci senza informare i nostri avvocati e abbiamo fatto casino, è venuto l'ispettore, la finanza è entrata, abbiamo detto ma che cazzo stiamo a fare qui, cioè che ci tenete a fare qui. Cioè, abbiamo fatto casino ieri verso le 10, 10 e mezza, non l'abbiamo manco fatto dormire. Noi ci siamo scaldati anche, abbiamo buttato la spazzatura per terra, abbiamo sbattuto. Noi quando si decide una cosa la decidiamo tutti quanti, siamo uniti, capito? Allora da di là ha cominciato il caos, cioè ci stanno a fare il culo. Abbiamo buttato la spazzatura, abbiamo sbattuto, abbiamo dato un po' di energia anche all'altro lotto. È venuto il cibo, l'abbiamo rifiutato, siamo usciti adesso dal medico, abbiamo fermato tutti quanti i fogli dello sciopero. Questo è in carcere, io sono uscito dal carcere, sono venuto dal carcere. Ci sono finito in galera. Perché è colpa dello Stato, che non mi dà una possibilità di lavoro, non mi dà la possibilità di aiutare la mia famiglia, di mangiare, o magari di sposarmi, di farmi una famiglia. È colpa dello Stato, non è mia. A quanto pare loro ci marciano sopra con le spese dell'Unione Europea, quindi ci marciano sopra, ma più di così che cosa vogliono fare? Cioè, io sono un paese che non dico che è mio, perché io ho la mia ideologia che l'Italia non è un paese per gli italiani, come Inghilterra non è un paese per gli inglesi, o Africa non è un paese per gli africani, siamo tutti cittadini del mondo. Quindi se avessimo rispetto per la razza umana, tutti questi, come si chiama, problemi, intracci, e poi pensieri razziali non dovrebbero esistere o persistere in qualche modo. Quindi dobbiamo solo avere rispetto per noi, perché siamo tutti uguali, insomma. Oggi leggevo una notizia che dicevano che la quantità degli immigrati italiani all'estero sono pari, identico alla quantità degli immigrati qui in Italia. Per cui siamo tutti uguali e Ma se uno non si trova bene nel suo paese si immigra per trovarsi una vita migliore. Io sono venuto qui quando ero piccolo, da 12 a 13 anni, non è che potevo intendere, ma non potevo volere, perché non avevo scelta. Se i miei genitori mi dicevano vieni qua, io dovevo venire, perché se potessi scegliere non sarei magari venuto qua a sostenere tante di queste cose, perché avevo delle obiettivi nella vita, come maggior parte delle persone qua. Poi siamo tutti qui con la stessa situazione, ma le dinamiche sono diverse. A volte le parole non bastano, ma Yeah. purtroppo questa è la realtà.